Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Perché se uno è stronzo non gli posso di stupidino, si crea delle illusioni, gli devi di stronzo. Sostengo pienamente l'azione della magistratura. Invito la magistratura ad andare avanti. Sta alla fronte a te. C'è veramente qualche organo di stampa che, come pagine colorate, come Topolino, che dovrebbe chiudere se non dessi lavoro. Leggo dalle vostre cronache di un signore di nome Manna. E devo dire sinceramente che non so chi sia. Nella mia memoria, su questa parola, mi ricorda solo due cose: la manna dal cielo. E l'altro Manna che mi ricordo, essendo a Napoli, era un certo Angelo Manna, che era un opinionista che in una televisione locale. Manna, tu sarai. Credo di aver dato lavoro ai giornalisti italiani più di Cooper Murdoch. Mi aspetto di essere nominato cavaliere del lavoro. Onestamente, credo di averlo meritato sul campo. A tutti i nostri collaboratori, l'appello di sempre: keep calm e al lavoro, senza distrazioni. Vi comunico che lunedì mattina facciamo una riunione del Consiglio regionale e approveremo la legge per la gestione del ciclo delle acque. Viene cancellato un altro luogo comune che pesa sull'immagine di Napoli, e che cioè l'acqua è poca e le papere non galleggiano. Da martedì galleggeranno tutte le papere e anche qualche somaro. Cioè, ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto, Vincenzo De Luca? Galleggeranno le papere, eppure qualche somaro. Personaggetti, gentucola, cialtroneria pura. Vabbè. Questo credo fosse Crozza, credo, perché adesso bisogna specificare bene, bisogna ascoltare bene per capire. Tutti i giornali raccontano, ha fatto una conferenza stampa, boh, ma adesso non chiamiamole più conferenze. Le conferenze stampa sono fatte così: uno arriva, rilascia delle dichiarazioni e poi accetta delle domande. Queste non sono conferenze stampa, sono comunicazioni alla stampa. Vabbè. Ha fatto sta conferenza stampa o comunicazione alla stampa e dicono i giornali sprezzante e in maniera incauta, senza sapere di aver dato materiale a chili a Maurizio Crozza, a chili per la puntata di domani, a chili. Keep calm. Keep calm. E al lavoro. Oh, vabbè, le 6:34 minuti, amici, questo è 24 mattino. E siamo qui. C'è Lorenzo. Manzone Espoli in redazione, il nostro Peter Bescapè in regia, e c'è anche il nostro direttore Umberto Brindani, direttore di oggi. Come va, direttore? Tutto bene? Che meraviglia, cominciare la giornata con un sole mio. Pavarotti ci tira sul morale un po', perché qui bisogna... Insomma, bisogna farsi tirare su un po' il morale. Allora, con Umberto Brindani, direttore di oggi, c'è la nostra Veronica. È tornata. Buongiorno. Veronica Gentili. Buongiorno, miei cari. Il cui migliore amico politico è proprio lui, questo personaggetto, Vincenzo De Luca. Io non so come starai ridendo da ieri. Mamma. Io vi chiamo da Topolandia qui, noi che siamo chiusi nella città di Topolandia, no? Caro direttore, Veronica Gentili dal Fatto Quotidiano, ce l'ha con De Luca da tempo in memore, dice che è un personaggetto, che insomma adesso starà, non lo so, starà da ieri. Va a sedersi sulla sponda del fiume e aspettare il cadavere del nemico, eccola, tanto prima eccola, o poi passano. Ma mi sa che ci vorrà un po', perché quello è un osso duro, sono d'accordo. È oltre crozza, perché devo dire che le pagine colorate come Topolino credo che non fosse, cioè, una cosa meravigliosa, sì. Però quello tiene duro e non mollerà. Certo. Ci sono alcune cose, però, intanto apriamo il Parlamento, perché ci sono alcune cose che non ho capito. Primo, una domanda: ma se De Luca, come dice adesso lui, vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo, è la parte lesa, ma perché non ha denunciato? Cioè, se ha subito delle pressioni, perché non ha detto? Non ha detto: scusate, c'è un signore, qualcuno che mi sta chiedendo qualcosa. E poi perché fino a due giorni fa diceva: no, il mio capo segreteria si è dimesso perché era stanco? Ma lui la chiave di lettura te l'ha data. Lui cita Eraclito, capito? Lui ogni tanto butta lì delle massime filosofiche e dice: adesso interrogati tu sul senso di quello che io ti volevo dire. Non c'è una risposta. Ieri, sentendolo parlare, no? Ormai è diventato uno di quei personaggi che sono entrati nell'iconografia classica, tipo Razzi, cioè su questo Crozza ha contribuito. Però purtroppo poi, quando uno lo vede che fa anche così, che gioca un po' a fare l'istrione, ed è in una situazione tipo questa, il tutto assume un carattere completamente grottesco, per cui si sente lui con questa voce, mentre così si arrampica su degli specchi dicendo cose che non stanno né in cielo né in terra, perché e uno si interroga: cosa vorrà dire questo? Ecco, vuol dire niente. È l'effetto stupore, capito? C'è l'eco dopo Eraclito, sull'eco tutti Accitate Brindani, vero? Vero che da ieri sei lì, dice: accitate Eraclito, che avrà voluto dire? Comunque, quanto si piace lui quando parla, questo è il suo problema, no? Si ascolta, è uno di quelli che parlano e si ascoltano. Sì. E comunque la cosa che dicevi tu è vera, perché lui due settimane fa, credo, a quanto riportano i giornali, due settimane fa aveva chiesto di essere sentito su questa vicenda, quindi lui la vicenda la conosceva, aveva mandato una lettera agli inquirenti per essere sentito, però non aveva fatto nulla per renderla pubblica, insomma. Quindi, che per carità, uno non è che è obbligato a renderla pubblica, però quando due giorni fa si è dimesso il suo capo della segreteria dicendo motivazioni e sono stanco, lui ha detto: ma è stanco, non c'è nessun altro motivo, è stanco, qui si lavora tanto. Ma poi continuando a prendere tutti in giro ogni volta, anche su questo personaggio, dicendo: beh, gli è stata fatta una pubblicità che neanche se la fosse cercata, neanche Winston Churchill. Capito? Lui fa sempre queste uscite a questi exploit, però purtroppo quando poi le cose ti inchiodano, perché al di là di come... Io non mi pronuncio assolutamente, non sappiamo come siano andati i fatti, infatti la procura di Roma ci sta andando, insomma, con grande cautela e grande attenzione. Comunque sia, lui le cose le sapeva e le conosceva, quindi un silenzio così lungo è un silenzio colpevole, è un silenzio strumentale, e questo è gravissimo. Il silenzio strumentale, sono un po' come Eraclito, questa colpevole di silenzio bene, strumentale, capito? Vito direttore. Io invece ho un'altra curiosità, sì, cioè? E cioè i signori che avrebbero in qualche modo avrebbero, secondo quanto si legge, tramato per farsi ottenere, diciamo, lo sconto sulla Severino, per capirci. Questi signori sono stati beccati perché, grazie alle intercettazioni telefoniche, cioè anche da signora del tribunale che doveva decidere, il marito avvocato, le persone che dovrebbero essere avvedute, sono state incastrate da intercettazioni. Ma io dico, ma ancora non hanno ancora il telefono. Brindani è da, Brindani è da, io ho l'editoriale credo di due settimane fa, era tipo, ma così, continuo, ma viva continuo. I pizzini di Provenzano, cioè, ma capito? Ma continuano a farsi beccare al telefono. Uno telefona perché non pensa che in Italia, allora sistemiamo pure quella carica, ma porca miseria, ma non l'hai ancora, ma non l'hai ancora capito che in Italia ogni tanto intercettano qualcuno, porcaccia miseria. Perfino il Papa ha detto a tavola, non usate. Esatto. No, ma è tutto ridicolo, perché poi da un lato fingono di mettere, no, un po' di cautela, quindi come la vicenda delle ciliegie, capito? Utilizzando parole, un gergo, portami che portami ciliegie smozzicate. 10 kg. O la persona sta psicotizzando e quindi serve un PSO in 5 minuti, oppure forse no. Oppure c'è qualcosa che non va. Pensate che scrive il quotidiano Libero che a questa giudice Anna Scognamiglio sono state trovate 8 SIM telefoniche. 8! Tu Brindani, hai mai avuto 8 numeri di telefono? Più di Moggi, esatto. 8 SIM alla collezione, faceva la collezione: 3 della TIM, 4 della Wind, 5 della Vodafone. E vabbè, così. 8. Certo, onore al merito, pensa che vita d'inferno. No, ma infatti, cioè, 8, cioè, non so. Pensati tu con 8 schede telefoniche. 8 schede telefoniche. Io c'ho un telefono che, voglio dire, ce l'hanno veramente dai colleghi a tutti i magistrati, a non so, a mio cugino di 12 anni, c'era tutti qui mi telefonano. Vabbè. E 8 schede telefoniche. E poi la difesa di questo giudice, ma io non lo capisco. Anna Scognamiglio, no, siamo separati in casa. Ma cosa c'entra? Siamo separati in casa, esattamente, capito? Separati in casa, sì, che dà l'idea che se uno è separato, proprio quell'idea atavica italiana, non farebbe mai un favore all'ex marito, no? Siamo separati in casa, e allora? Non ho capito. In casa è meraviglioso. Separati è una cosa, ma separati in casa io non la sentivo dagli anni di Arbore, dietro tutta. Siamo separati in casa. È tutto un po' una... Ma poi è tutto un fatto di costume, cioè tutta la vicenda è talmente ridicola che assume dei connotati grotteschi, cioè la difesa siamo separati in casa, in linea con la conferenza stampa di De Luca di ieri, è tutto completamente paradossale. E infatti il PD tace, lapidato proprio, capito, in una vicenda che non è appunto come quella di Marino, in cui è molto facile stare lì e salire in cassa. Effettivamente tace. Che deve fare il PD? Scusate. Il PD tace. Io oggi abbiamo provato ad avere un esponente del PD, parleremo con Antonio Padellaro alle 8:15, ma abbiamo provato a chiamare qualcuno del PD, c'è chi aveva un appuntamento, chi una visita medica, chi ci ha detto sì, Gennaro Migliore è stato bravissimo, ci ha detto sì, intervengo, poi ci è arrivato dopo mezz'ora, ha detto scusate, no, mi è venuto in mente, avevo un altro impegno. Avrà un impegno sicuramente, non... Sì, ma tanto cosa vi dicono? Non possono dire niente. L'unico che parla è Ansaldi, che ha detto qualcosa, al solito, ma anche lui Ansaldi. Sì, però non so, cioè, sono tutti personaggi, cioè, personaggetti. Ma scusate, mettetevi nei loro panni. Dopo Marino gli scoppia la grana De Luca, come se non bastasse, adesso Fassino in difficoltà nel ricandidarsi a Torino, ma questi cosa devono fare, poracci? No, ma infatti l'unica frase attribuita a Matteo Renzi è questa su Repubblica: credo che De Luca ce la farà. Ecco, quel credo che De Luca ce la farà, è come se fosse che in prognosi riservata e dove qualcuno, ma ce la farà fare, esatto, cosa? Ce la farà, cosa? Chissà se ha invece esternato, credo di sia esternato Miguel Gotor, ecco, Miguel Gotor fosse esternato, De Luca come la prenderebbe? Tale Miguel Gotor. Io pensavo sinceramente che fosse un ballerino di flamenco, un tanghero. È quello che ha lanciato operaio in ridicolore più straziante. Ragazzi. No, bisognerebbe sentire la Bindi, a questo punto vogliamo. Lo so, stavo pensando che la Bindi è l'unica che ha veramente la sua rivincita. Qui tutti in redazione ieri hanno detto chiamiamo Rosy Bindi. Maria Rosaria Bindi. Non l'hai chiamata? No, non l'abbiamo chiamata, ma non avrebbe parlato. Dai, non perché avrebbe... è troppo signora, è troppo elegante per adesso accanirsi su. Non è il momento. No, però... ma queste cose si pagano. Dopo la volgarità con cui si era espresso nei suoi confronti un mese fa, questo appunto. La nemesi. Vabbè, è la nemesi. Qua siamo a Eraclito proprio. Allora, dobbiamo andare al traffico. Poi parleremo di quello che sta succedendo in Vaticano. C'è un'altra bella sorpresina oggi per la Chiesa dalle colonne dei giornali, che viene dall'ex abate di Monte Cassino, che si divertiva con ecstasy, viaggi a Rio de Janeiro e 8 per 1000 fottuto a tutti noi, credo 500.000 euro per un totale. Attendiamo ovviamente il selfie di Veronica Gentili. Ci sono Peter Bescapè e Lorenzo Nespoli che agitano un cellulare dall'altra parte del vetro. Credo che il significato sia non c'è ancora la foto di Veronica Gentili. Caro direttore, noi facciamo abbiamo inaugurato questa pazzia. Ogni volta chiediamo ai nostri ospiti se vogliono di fare una foto, un selfie, oppure non lo so, se vuoi fare una foto del comodino di casa, vabbè, fai tu. E poi come ce la mandi? Via Twitter? Sei su Twitter? No, io sono anti Twitter. Vabbè, comincia se vuoi a farla, poi dopo ci pensiamo come mandarci via mail magari, poi ne la mettiamo su Twitter tra poco. Alino, manda il traffico, dammi il traffico, por favore, il traffico. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta... Puntuale come l'influenza invernale, ecco che si presenta Bruno Vespa con il suo nuovo libro e saltella da una trasmissione all'altra. Ce lo troviamo tutti i giorni, in tutti i momenti. Un altro po' esce pure dalla tazza del gabinetto. Ciao Milan. Tutti gli esponenti del governo Renzi usano queste espressioni. Stiamo facendo, stiamo costruendo, stiamo lavorando. A me pare che sia il governo del gerundio anziché quello del fare. Tu cosa ne pensi? Parafrasando De Luca, Alessandro Milan, sei il dispensatore di felicità più grande al mondo. Oh Milan, sono fiorentino, grazie che non mi hai fatto cominciare il lunedì con quella voce antipatica della Veronica Gentili. Ciao. Vabbè, siamo a giovedì. Questo signore è un genio. Questo signore è veramente. Ogni tanto ci vogliono bene, ogni tanto no. Adesso non è che possiamo volere tutto dalla vita. Ma il signore voglio io il numero di telefono, adesso lo chiamo. Vabbè, se vuoi te lo diamo. Adesso me lo faccio dare, poi lo chiamo proprio sul cellulare. Così mi sente. Lo molesti individualmente. Lo molesti esatto. Individualmente. Esatto. Si usano i metodi ad personam. Pensa avere come stalker Veronica Gentili, no? Che ti... avere come stalker che ti chiama 10 volte al giorno. Oh, allora! Esatto, perché sì. Capisci, se mi gira storto, pensa sì, che tipo sì, di stalker sì. Simpatica che posso sì, essere. Sì, c'è di peggio, cioè, ci sono cose peggiori nella vita, ecco. Però va bene, per esempio, l'ex abate di Monte Cassino. È peggio. che simpatico. Questo signore si chiama, anzi questo signore, questo monsignore, come si chiama? Vittorelli, Vittorelli. Caro Brindani, lo conoscevi questo monsignor Vittorelli? Non lo conoscevo, ma pare che altri lo conoscessero molto bene, sì. a quanto sì, leggo. Sì. Anche ieri su Dagospia, lo conoscevano sì. Anche sotto altro nome, diciamo. Quale altro nome? Quale nickname aveva? Un nickname, se non ricordo male, una cosa tipo Marco Venturi o Ventura, una cosa Marco di questo Ventura, tipo, vabbè. Con cui si presentava quando andava a divertirsi in giro. Insomma, ecco. 500.000 euro prese dai conti dell'8 per 1000 dei poveri, messe sul suo suo conto, viaggi in prima classe, cene con le ostriche, viaggi a Rio de Janeiro e feste. Il problema è sempre da dove vengono i soldi, perché nostri, al di là della nostri, doppia morale nostri. È che è sempre questo, è sempre offerte. Nostri, ma sempre, sempre sull'ipocrisia. Poi chiaro, è come è il discorso del lattico di Bertone che viene da ridere, ma in realtà non c'è niente da ridere, appunto c'è sempre questa nebulosa intorno, per cui il mistero non si sa da dove vengono i soldi, loro non lo sanno. Sì. Loro lo sanno benissimo. No, loro lo sanno. Bertone ha detto che non lo sapeva. No, Bertone ancora ieri ha detto no, non sapeva nulla, che allora, i 200.000 euro in più non sapeva. Non sapeva che gli hanno ristrutturato l'attico. Si è finto benefattore. Ha detto che lui ha pagato 200.000 euro di tasca sua per un appartamento che resterà ai beni della chiesa. Però? Attenzione, però, che qui c'è un salto di qualità, diciamo, non confondiamo Bertone con l'ex abate di Montecassino, perché insomma Bertone abbiamo ricamato, io stesso ho ricamato sul fatto che lui vive in un appartamento di 300 metri quadri con tre suore, quell'altro ce n'ha 250 con due suore, quante suore deve avere ciascun cardinale, però insomma tra Bertone e Vittorelli c'è una bella differenza. Sì, tu ieri scrivevi, su Oggi scrivevi cos'è una suora ogni 100 metri, cioè ogni 100 metri. C'è un algoritmo, no? Cioè, ogni 100 metri quadri una suora e il Papa che vive in 50 metri quadri, quindi ne avrà mezza suora per il Papa, mezza suora. Ma c'è colui che ha detto li impiccherei questi giornalisti, ve lo ricordate? Nuzzi e Fittipaldi, che hanno scritto i due libri Via Crucis Nuzzi e Avarizia Fittipaldi, e che ora sono indagati in Vaticano. Attenzione, sono indagati, quindi non lo so, vanno a messa a San Pietro e vengono portati via dai gendarmi, dai guardie svizzere, non lo so. Adesso bisogna vedere cosa dicono le autorità italiane, altrimenti il processo sarà in contumacia in un Vaticano. Mandato di cattura internazionale per Nuzzi e Fittipaldi. ci vorrebbe e Don Livio Fanzani, mitico direttore di Radio Maria, che ha detto lui ha proprio scavalcato qualunque tipo di lui ha detto li impiccherei, e poi ha detto ma non è vero niente, non ho mai detto una cosa del genere. I soliti pataccari hanno tagliato delle mie frasi, mi hanno fatto dire quello che io mai ho detto, però sono rimbalzate sui giornali, sul web, rimbalzare la notizia che io avrei detto che impiccherei, impicco i due giornalisti. Ma l'hai detto. Fatto sentire cinque volte qui. Ce l'abbiamo ancora, no? L'impiccherei. No. Vabbè, ma ce l'abbiamo, l'ha detto Giuda. Lui ha detto: ho fatto il paragone. Ho detto: Giuda si è impiccato. Non che io l'impiccherei. No, ma ha detto: c'è l'istigazione all'impiccagione. C'è Giuda di ieri e di oggi che dovrebbero impiccare. Ma poi l'ha detto. Poi l'ha detto lui. Ha detto quasi l'impiccherei. Quello che mi scandalizza sono i Giuda. Di ieri e di oggi, i giornalisti cattolici che dicono delle cattiverie, i giornalisti cattolici che hanno la lingua biforcuta, la penna biforcuta, è una cosa che mi fa rimettere, mi fa nausea. Stomacare, devo far fatica a pregare per loro, perché io li impiccherei quasi. L'hai detto Don Livio Fanzaga, e su dai, tagliare le frasi. Vabbè, dai, vi devo salutare. Umberto Brindani, direttore di Oggi, numero che trovate in edicola ovviamente di questa settimana, e Veronica Gentili, grazie per essere state con noi. Mandateci la foto e il selfie. Alla prossima. Il segnale orario vi è offerto da Pantera col TH, l'ERP di Infracomitalia, anche in cloud. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su Audi.it. Vi presenta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Eccoci qui, cari ascoltatori, quando sono le 7:19 minuti in punto in questa giornata di giovedì. Allora, parleremo del caso De Luca con Oscar Giannino, parleremo ovviamente dell'inchiesta che sta coinvolgendo il governatore della Campania, che dice però io sono parte lesa di tutto questo, fa anche un'intervista oggi, un'unica intervista all'Unità, intervistato dal direttore Erasmo D'Angelis, la vedremo tra poco.